Signore e signori, benvenuti. Tra pochi istanti avrà inizio lo spettacolo di margine operativo dal titolo Partisan Let's Go, con sottotitolo provvisorio Fascist Fuck Off. È uno spettacolo di parte per un pubblico con un preciso orientamento politico. Ci teniamo a dire che questo non è uno spettacolo di genere, non è uno spettacolo psicologico, non ci sono trame da seguire o personaggi a cui affezionarsi, non ci sono le battute idiote, o forse sì, non ci sono gli sguardi isterici, o forse sì. Saranno evitate le lungaggini filosofiche, i sottintesi eruditi, le locuzioni proverbiali. Questo spettacolo nasce dalla consapevolezza che la società è divisa e che ognuno di noi deve decidere da che parte stare. Non abbiamo nessuna intenzione di non offendere una specie umana a noi ostile. D'altronde, quando guardiamo un documentario sulla natura, ci viene spesso ricordato l'importanza del ciclo della natura stessa. Ovvero, o sei preda o sei predatore. E così anche noi in questo semplice spettacolo ricalchiamo questo semplice motto: o sei preda o sei predatore. Chi si prende qui la responsabilità di fermare il leone intento ad azzannare la sua preda? Vi chiediamo, signore e signori, insomma, un'adesione intima, profonda. È evidente che tanto più il nostro tentativo è pericoloso, quanto più è colmo di ambizione. C'è da dire che, visti i contenuti discutibili dello spettacolo, saremo protetti da un servizio d'ordine ben organizzato e per nulla visibile ai vostri occhi indiscreti. E adesso spegnete i telefonini, perché vi fa bene, per questo dovreste anche ringraziarci. E ultimissime informazioni: dopo questo breve prologo vi comunichiamo che lo spettacolo è composto di 4 capitoli, rispettivamente dal titolo Quando c'era lui, C'è qualcosa di strano in un uomo che porta le ghette bianche sotto una camicia nera, 8 coltellate, Let's Go Partisan. Capitolo 1. Quando c'era lui. Se non li conoscete, guardateli un minuto. Lì riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si segue a braccia tesa, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso di allentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Quando c'era lui. quando c'era lui, è una famosa ciancia usata soprattutto da dei vecchi fossili in stato catatonico per aprire vari argomenti su come, per esempio, l'autobus sia in ritardo o su quanto poco prendano di pensione al giorno d'oggi. Quando c'era lui, quando c'era lui era diverso, ecco, era meglio. Quando c'era lui, qui era tutta campagna. Anche i contadini lavoravano e i treni arrivavano in orario. Ah, si andava a dormire presto, ci si alzava presto e ci si curava con lo sputo, per Dio. I maschi con i maschi, le femmine con le femmine. Quando c'era lui, esistevano le mezze stagioni e i figli si crescevano con le mazzate, per Dio. Ah, pugni e manganelli fanno i figli belli. Quando c'era lui, i giovani non erano come quelli di oggi, no, che sono solo degli sbandati senza rispetto di Dio, per Dio. Quando c'era lui, lui puntava il dito, e se puntava il dito, uccideva davvero, per Dio. Ma lo sapete che quando c'era lui si potevano lasciare le porte aperte, tanto nessuno si metteva a rubare. All'epoca avevamo qualche cosa in cui credere, mentre adesso questa cosa ci manca, per Dio. Quando c'era lui noi ci sentivamo tutti uguali, proprio come se lui fosse stato uno di noi. E non c'era estate che lui non fosse tra di noi a mietere il grano. Ah, arrivava alto, possente, qualcuno dice come un dio romano, a cavallo. Anche il poeta, sorge il sole, canta il gallo, Mussolini monta a cavallo. E lui arrivava ed era tra di noi a mietere il grano, per Dio, perché l'Italia intera era fatta di grano, come la pizza, come la pasta, come i taralli. E lui era tra di noi a mietere il grano, a cavallo, perché quando c'era lui, per Dio, era importante saper andare a cavallo. Ah, ed era importante essere sportivi e coraggiosi, per Dio. Ti sembrerò romantico, ma dimmi tu se dico falsità. Io sì lo so, ti sembrerò nostalgico, ma questa non è storia, è verità. Quando c'era lui tutto era fantastico, e vivere in Italia era bellissimo. Quando c'era lui, altro che viaggi nel Messico, e non sono solo chiacchiere da bar, rock and roll. Su, dai, ammettilo, non puoi nasconderlo, il primo amore non si scorderà. Inevitabile, immaginabile, nel mondo a testa alta noi andavamo. Quando c'era lui tutto era fantastico, che viaggi nel Messico, il Messico, e non sono solo chiacchiere da bar, è rock and roll. Credici? Rock and roll. Credici? Rock and rock and rock and roll. Credici? Rock and rock and rock and rock and rock and rock and rock and roll. Credici? È rock and roll. Capitolo 2. C'è qualcosa di strano in un uomo che porta leghette bianche sotto ad una camicia nera. È Mussolini. Era la democrazia che ha tolto lo stile alla vita del popolo. Il fascismo riporta lo stile nella vita del popolo, cioè il colore, la forza, il pittoresco, l'immaginifico, il mistico, insomma, tutto ciò che conta nell'animo delle moltitudini. Divinizzato, dichiarato infallibile, preconizzato organizzatore di un rinato impero romano, conosciamo quel viso, conosciamo quel roteare di occhi nelle orbite che servivano con la loro ferocia meccanica in passato a far venire i vermi alla borghesia e oggi al proletariato. Conosciamo quel pugno sempre chiuso alla minaccia. Mussolini è il tipo concentrato di piccolo borghese rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale da secoli di dominazione dei preti e degli stranieri. Non poteva essere il capo del proletariato, divenne il dittatore della borghesia che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica. Era necessario farsi strada con la forza, con il sacrificio e con il sangue. Era necessario stabilire un ordine ed una disciplina voluti dalle masse, ma impossibili da ottenere con una propaganda all'acqua di rose, fatta di parole, parole ed ancora parole, ed improbabili battaglie parlamentari e giornalistiche. Una sera Mussolini, stanco di stare in casa da solo, si infilò un pastrano, si calò il cappello sugli occhi e col viso nascosto dal bavero uscì a spasso per le strade di Roma. Giunto davanti a un cinematografo, venne anche a lui, come a tutti gli altri, la voglia di divertirsi. Così comprò un biglietto ed entrò. Lo spettacolo iniziava con delle news pictures e naturalmente il protagonista delle news pictures era lo stesso Mussolini, sempre il solito Mussolini. Mussolini a cavallo, in automobile, in motoscafo, in aeroplano, Mussolini in frac, in camicia nera, in uniforme, Mussolini che passava in rassegna le truppe fasciste, che inaugurava un monumento, presiedeva un convegno di filosofi, stringeva la mano a un cardinale, saliva sul Campidoglio e pronunciava un discorso, due discorsi, tre discorsi, un'infinità di discorsi. Quando il duce era apparso sullo schermo, tutto il pubblico si era alzato in piedi ad applaudire e soltanto lui, soltanto Mussolini, non essendo abituato ad alzarsi in piedi in proprio onore, era rimasto tranquillamente seduto. Un modesto piccolo borghese, che si era alzato anche lui in piedi ad applaudire, vedendo quel tale rimaner lì di fianco, seduto, con tanta inutile impudenza, gli si avvicinò all'orecchio e gli disse: «Signore, mi scusi, guardi che qui in questa sala io, come molti altri, abbiamo il suo stesso pensiero. Solo mi dia retta, è meglio alzarsi». Ove mancasse il consenso, c'è la forza per tutti i provvedimenti, anche i più duri, che il governo prenderà. Metteremo il cittadino di fronte a questo dilemma: o accettarli per alto spirito di sacrificio patriottico, oppure subirli. La Italia la era padronescamente polluta con lo spiritato. Lo spiritato l'era imperialescamente grattato e tirato a prurigine dal plauso d'un popolo di 44 milioni di miliardi di animalini a cavatappo. Lui, il racimolatore e fabulatore e deiettatore delle enfatiche cazziate quali ne sgrondarono dal balcone 23 anni durante sulle povere e macre spalle d'una gente sudata, convocata birrescamente a sagrati maledetti, a rostri delle future insconfitte e alle acclamazioni obbligative. Vorrei, e sarebbe mio debito, aver dottrina di frenologo o di psicologo, di studi consumati in Sorbona, tanto da poter capire con più partita perizia la follia tetra del Marco Aurelio ipocalcico, dalle gambe a icchese, autoerotomane e affetto da violenza ereditaria. Frenologo non essendo e tantomeno sifolologo farò, icché potrò. Dire che Mussolini ha fatto anche delle cose buone è come se un elettricista venisse a casa mia, mi facesse un impianto perfetto, ma nel frattempo stupra la moglie, sventra il cane e mi uccide la madre. Capitolo terzo. 8 coltellate. Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole. Occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi, allegra, mondana, socialmente letta dal fondo brutalmente egoista di una società. Sono il primo ad ammettere che il fascismo fu una tragicommedia. Di più tragicomico probabilmente ci furono soltanto gli italiani, ma non è il caso di disperarsi. Anche i popoli hanno avuto un'infanzia difficile. Mi chiamo Renato Biagetti e a me i fascisti non fanno paura. Non mi hanno mai fatto paura, nemmeno quando mi hanno ucciso. Quelli che mi fanno paura sono quelli che non fanno niente, quelli che non dicono niente, quelli che non sanno niente. Sono quelli che dicono che sono delle ragazzate o che quelli come me se la sono andata a cercare. Oppure sono quelli che dicono che è folklore. Svastiche, bandiere nere, saluti romani, folklore. Come i santi, con addosso i serpenti, nelle processioni, oppure i danzatori con i tamburelli, folklore, fenomeni marginali, sacche di delinquenza, risse tra balordi, tre righe di cronaca. E intanto si riscrive la storia, si mischiano i morti, si dimenticano cause e ragioni. Ecco, io sono morto per loro, non per voi. Io sono morto per loro e a loro continuo a pensare. È tutto così assurdo, come in un brutto film. Come in un film in cui la trama non torna. Eppure io in quel film ci abitavo, come ci abitate voi adesso. L'Italia è un paese che ancora non si è stancato delle morti come la mia. È un paese in cui tutto è normale, anche morire fuori da una festa di musica reggae. 8 coltellate. Una è stata così forte che addosso mi è rimasto il segno del manico del coltello. Tutto normale. Anzi, normalissimo. Cosa c'è di strano? Che si comincia sempre così. Sotto forme diverse, sotto diversi nomi, il fascismo ha serpeggiato in tutte le nazioni, come un'infezione in un organismo che si diffonde e si manifesta qua e là. Capitolo quarto. Let's go, partisan. Non ero politicizzato, no. Però in casa mia avevo sentito parlare contro il Duce e ricordare in tempi in cui c'era libertà di parlare, di far sciopero, per farsi valere. E questo mi è servito. Era solo un'infarinatura, ma voleva dire essere già abituati a certi discorsi. Giuseppe Serra, classe 1928, partigiano. Vivere alla macchia significa fare una vita selvaggia in cui ci si sente fiere, Non è un caso che siano tanto numerosi i nomi di battaglia riferiti ad animali selvaggi, forti ed aggressivi come lupo, leone, tigre, leopardo, pantera, giaguaro, orso, oppure astuti e rapidi come volpe, falco, lince, scoiattolo, lepre. Sono tutte metafore che testimoniano quel tipo di disperata vita animale giunglare di cui parla Fenoglio e che viene ribadita in diversi canti partigiani. Da un anno noi quassù come il cinghiale siamo vissuti dentro i covi. Sull'aspre rocce ci siamo fatti lupi. Siamo falchi, audaci e arditi. Cosa importa se tuona il cannone, partigiano glorioso leone? Emanuele Artom, classe 1915, partigiano. Quella notte che ho dormito a casa per la prima volta dopo il 25 aprile ho dovuto dormire per terra perché non ce la facevo a dormire nel letto, ero abituato al duro. Giuseppe Ravazzi, Ulno, classe 1915, partigiano. Ricordo il disagio tremendo delle notti passate a dormire con una coperta in tre e io in mezzo. C'era sempre un filino appeso al soffitto, un lucignolo, una candela accesa con sotto un foglietto su cui era segnato il turno di guardia. A tre, a tre, a tre facevano la ronda per controllare. E io stavo sveglia. Tante notti ho passato in bianco perché ero troppo stanca. E la stanchezza ha un limite. Non riuscivo a dormire e allora analizzavo gli odori. Odore di urina, odore di brillantina, odore di tabacco. Poi analizzavo i dialetti dei compagni che parlavano nel sonno, con quella candela sempre accesa perché si potessero vedere i turni. Elsa Oliva, Helsinki, classe 1921, partigiana. Restiamo per diversi giorni lungo il torrente Malone, attendati, così potevamo lavarci e curarci la scabbia. E dichiarare guerra ai pidocchi. Avevamo due pellicce bianchissime, erano piene di pidocchi, chissà di quante nazionalità ve n'erano. Mancavano solo i nostri di pidocchi per completare la fratellanza universale. Gratta che ti gratto, le due ore di sentinella passavano in fretta anche se in cattiva compagnia. La scabbia faceva prurito e lasciava un terribile bruciore. Il gelo pizzicava i piedi e il vento fischiava. Era la notte di Natale. Giovanni Martinetto, classe 1927, partigiano. Comunque la mia e quella degli altri è stata un'esperienza che guai a non farla, chi non l'ha fatta non capisce una parte del mondo. La differenziazione tra fascismo e resistenza è stato soprattutto questo, che venivamo da un regime dove il giovane era obbligato a fare il balilla, l'avanguardista. Doveva andare e se parlava un calcio nel sedere. E lì invece maturava un'esperienza in cui ti confrontavi, dicevi la tua, dibattevi, partecipavi. A 19 anni diventavi comandante se eri capace. Questa roba qui è stata la più grande differenza, capire la democrazia e il rapporto con gli altri. Domenico Marchesotti, Palo, classe 1925, partigiano. Eravamo due sorelle e due fratelli con due anni di distanza l'uno dall'altro. Tutti finimmo arrestati, anche mia madre. Mio padre no. Mio padre non era fascista, ma non faceva niente. Non era vigliacco, era la sua forma mentale da ispettore capo della dogana. Mio padre metteva i soldi da parte per la pensione. Era autoritario in maniera terribile. E noi facevamo la fame, bisognava chiedere i soldi prima che li mettesse in banca, se no era finita. Così abbiamo dovuto fare una rivolta in famiglia e da lì abbiamo fatto esperienza e l'abbiamo fatta diventare una cosa più grande. La nostra vita è stata talvolta dura e difficile, ma io non rimpiango nulla, se non forse che avrei potuto fare di più e meglio, ma con tutte le delusioni, le amarezze, i dolori, le gioie. Questa è stata la mia vita e io l'ho vissuta intensamente, con entusiasmo, soffrendo, amando e lottando. Giovanna Marturano, classe 1912, partigiana. o ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti mi riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che è in mano nemica. Vedavamo l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco.